Controradio e Cospe presentano Sotto Controllo, un reportage di Gianni Toma dai checkpoint in Palestina. Traduzioni dall'arabo di Mustafa Safi. Benvenuti a Gerusalemme, nella città vecchia, nella culla della civiltà cristiana, nella terra abitata dagli arabi, nella patria promessa agli ebrei, in un fazzoletto di terra dove nel corso dei secoli la gente ha imparato a convivere, a rispettare le altrui radici, l'altrui credo, dove il rispetto altrui tra la gente è la norma, è la prassi quotidiana. E benvenuti a Surda, alle porte di Ramallah, verso i villaggi dei contadini, dove la magia della città vecchia di Gerusalemme, a pochi chilometri, si dissolve contro i freddi massi di pietra di un checkpoint. So checkpoints for us are a division between the two societies. It's Israel's way of... I checkpoint sono il simbolo stesso della divisione tra le due società. Oggi i checkpoint rappresentano di fatto l'unico contatto tra la gente di Israele e Palestina, che in realtà è un contatto tra i soldati armati israeliani e i civili palestinesi. Ogni tipo di incontro tra palestinesi e israeliani è dichiarato fuori legge dal governo israeliano e i soldati sono lì a garantire questo divieto, questa situazione. We risk going to prison and it shows what the occupation does. A spiegarci in breve cos'è un checkpoint è Connie, un'attivista israeliana impegnata contro l'occupazione dei territori palestinesi che lo stesso Stato di Israele porta avanti ormai da 36 anni. I checkpoint sono l'emblema di questa occupazione, sono i simboli messi lì a sancire la frattura, la discriminazione, l'esercizio del potere da parte di uno Stato attraverso il suo esercito. Reach the checkpoint at 7 o'clock. In the morning, I stay still elephant. When the soldiers ask me where you going, I said to home at Ramallah. So he tell me you couldn't go, you should go back to Nablus. I said I'm from Ramallah and I want to go home. He says you couldn't go. Just you shall go back to Nablus. Dopo essere partito da Nablus ho raggiunto il primo checkpoint alle 7 del mattino e sono rimasto in coda in attesa del mio turno fino alle 11, quando i soldati israeliani finalmente mi hanno chiesto dove andavo. Ho risposto a casa, a Ramallah. Così mi hanno ordinato: devi tornare indietro a Nablus, a Ramallah non puoi andarci. Ho insistito dicendo che sono di Ramallah e che volevo tornare a casa, ma mi hanno ripetuto di no, che dovevo tornare a Nablus. Ho trovato lì una donna, un'attivista che lavora con un'associazione impegnata per i diritti umani, e le ho chiesto se poteva aiutarmi. Le ho spiegato che i soldati non mi permettevano di superare il checkpoint senza indicarmi un motivo preciso. Lei ha spiegato la mia situazione a uno dei soldati, ma niente da fare. Così sono rimasto al checkpoint fino alle 3 del pomeriggio e ho provato a passare di nuovo. Anche stavolta però niente da fare. Mi hanno tenuto ancora lì dalle 3 alle 6 e poi mi hanno consegnato un foglio con l'intimazione a recarmi presso la colonia di Afar per essere al colloquio con il capitano per il giorno successivo. Solo così mi hanno fatto passare. Quindi sulla strada verso casa ho raggiunto un altro checkpoint, quello di Taibè, e qui sono stato fermo un'altra ora prima che i soldati mi facessero passare. Poi a Calandia, un altro checkpoint, sono riuscito a passare più facilmente senza essere fermato di nuovo. A Surda, poi, l'ultimo checkpoint che devo superare prima di raggiungere la mia casa, i soldati mi hanno chiesto la carta d'identità, poi mi hanno fatto altre domande: dove lavori, dove vivi? E io ho dovuto ripetere che lavoro a Ramallah e vivo a Birzeit, un villaggio vicino. Solo dopo mi hanno permesso di procedere. Così sono riuscito ad arrivare a casa alle 9 di sera, dopo 14 ore dalla mia partenza, e pensare che se non ci fossero stati checkpoint per andare da Nablus a Bir Zeit, ci avrei impiegato un'ora e mezza. The last checkpoint, Sorda. Sorda, he tell me, you give me the Hawiya, and he asked me where you work, where you was, yani. Stay. I tell him I working in Ramallah and I shall go my home. He said I will check your Hawiya, and after that he allowed me to go to home. I reached the house at 9 o'clock. Without checkpoint, you can go from Bir Zeit to Nablus. It takes half an hour. La protervia, l'umiliazione, l'assoluta discrezionalità, come dal racconto di Mustafa, sono le regole di un checkpoint. Oggi lo superi in 10 minuti, domani ci starai 10 ore, dopodomani potrai trovarlo chiuso e sarai costretto a non uscire dalla tua città. E così magari perderai il lavoro o il tuo raccolto in campagna andrà in malora. Assurda poi si raggiunge l'inaudito. Il checkpoint non è lì per controllare un punto di passaggio tra città israeliane e territori occupati, come tecnicamente deve essere per un checkpoint. Quello di Surda è un checkpoint tutto interno ai territori occupati ed è stato creato col solo scopo di umiliare e tenere sotto pressione gli abitanti di Ramallah e dei villaggi circostanti. Before 2 weeks, one of our colleagues in accident, car accident, lost his nephew. So he decided to go to visit his family because they've been in sorrow. So we need to cross the checkpoint, Surda checkpoint, to reach the village from where he is coming. So when we arrived at the checkpoint, Surda checkpoint, you need to go by foot. That means you need to take taxi from Ramallah till the first checkpoint. It's near Surda. A giugno, insieme ad un gruppo di colleghi, abbiamo pensato di andare a far visita ad un nostro collega rimasto vittima 2 settimane prima di un incidente stradale. Per raggiungere il villaggio in cui vive, dovevamo però superare il checkpoint di Surda, alle porte di Ramallah. Quando arrivi a Surda, sei costretto a scendere dal taxi o dal bus o dal tuo mezzo e percorrere a piedi circa 2 chilometri per poi riprendere altri mezzi e proseguire verso i villaggi. Ma talvolta i soldati si appostano ben prima del checkpoint, così il tratto da fare a piedi si allunga. E pensare che ci sono molti vecchi e persone ammalate che sono costretti a percorrere tutta questa strada a piedi con estrema difficoltà. Quel giorno, come le altre volte, abbiamo percorso il checkpoint a piedi e, raggiunta la parte opposta, ci siamo messi in cerca di un bus per i villaggi. All'improvviso sono sopraggiunti i soldati israeliani che hanno fatto allontanare i taxi. Uno dei tassisti nella ressa non riusciva a trovare le chiavi dell'auto immediatamente. Così uno dei soldati, quando il tassista è riuscito a trovarle, gli ha urlato: «Dammi le chiavi, questa è la punizione per chi non collabora». E nel frattempo è entrato nell'auto e ha sradicato il volante. Intanto altri 2 militari si divertivano a rompere i vetri di altri taxi. Poi sulle loro jeep i soldati hanno iniziato a traversare ad alta velocità il tratto che la gente percorre a piedi, sollevando tanta polvere in una giornata di calda estate, almeno 3 volte avanti e indietro. Potete immaginare il disagio per i bambini e gli anziani che erano lungo la strada. They crossed the this way where you walk by foot more than 3 times just to let the dust to go very up, so all the people there, they've been dusted. And can you imagine where you have children, child, baby with you, or old person, or person who have pneumonia or have lung problem to get this dust to get in their body. دق الباب دخلوا الغياب la cattiveria del soldato di turno con la certezza dell'impunità, come ci ha raccontato Zarife, che vive a Ramallah, città capitale costantemente occupata o accerchiata dall'esercito di uno Stato che si definisce democratico. E guai a voler rimuovere il checkpoint, come è stato tentato talvolta assurda. Mustafa ci spiega perché. I think there is sometimes people try that to open the street, but soldiers coming and close it. When they opened it, the people open it, the soldiers come back. Talvolta qualcuno ha provato a riaprire la strada bloccata dal checkpoint rimuovendo i grandi massi di pietra che bloccano il passaggio dei mezzi e costringono la gente a piedi, ma i militari israeliani non appena se ne sono accorti hanno subito portato altri massi ancora più grandi a bloccare la strada e quando sono riusciti a intervenire rapidamente hanno anche confiscato i bulldozer degli abitanti dei villaggi che erano intenti alla rimozione. Non solo, ma talvolta hanno anche fatto degli speciali appostamenti e sono intervenuti con la violenza, arrivando anche a ferire chi tentava di rimuovere i massi. In alcuni casi queste persone sono state fermate e arrestate. Qualcuno poi tenta di eludere il checkpoint e cerca di raggiungere la propria abitazione o il proprio posto di lavoro, attraversando le montagne e le valli che separano Ramallah dai villaggi, soprattutto quando i militari non permettono il passaggio oltre il checkpoint. Ma i soldati non si fanno alcuno scrupolo. Se si accorgono della presenza di qualcuno nelle stradine di montagna, possono anche arrivare a sparare a vista per punire queste infrazioni. L'arbitrio così eclatante e assurda è comunque la regola anche in altri checkpoint, come quello di Calandia, checkpoint per eccellenza situato sulla strada tra Gerusalemme e Ramallah. Another story which I face during my travel between the checkpoints, it's also in Calandia checkpoint. It was with a soldier. She's a woman. She's black. And she didn't allow me, even it's easy to pass, but she didn't allow me to pass. She just take my ID and she leave me under sun for 4 or 5 hours, and then she told me that you are not allowed to pass the checkpoint. Ho vissuto una situazione assurda al checkpoint di Calandia. Lì per un certo periodo c'è stata una soldatessa che si è accanita contro di me, inspiegabilmente, e non mi ha mai permesso di attraversare il checkpoint, tra l'altro in un periodo di relativa tranquillità, quando quasi tutti passavano senza particolari problemi. Questa donna non mi permetteva di passare, prendeva la mia carta d'identità, mi lasciava sotto il sole per 4-5 ore e solo dopo mi comunicava che non mi era permesso passare il checkpoint e che dovevo tornarmene a casa. E questo è successo più di una volta. Nel giro di una settimana me l'hanno fatto per 5 volte. Un giorno ha preso la mia carta d'identità e mi ha detto che avrebbe chiesto al suo superiore, ma il permesso di superare il checkpoint non me lo ha dato. Così, mentre lei era occupata a controllare altre persone, io ho raggiunto il suo superiore e gli ho detto: «Non c'è ragione che la signora ogni giorno non mi dia il permesso di superare il checkpoint, mentre permette a tutti gli altri di passare». Lui allora la chiamò, ma lei con me non parlava. Parlava solo in ebraico con il suo superiore, che le chiese: «Perché non permetti a questa signora di passare il checkpoint?» Ma lei, davanti a me, non diede alcuna spiegazione. So solo che quel giorno riuscì a passare. Anche se al ritorno da Ramallah, nel pomeriggio, incontrai la stessa soldatessa, che mi creò di nuovo grossi problemi per farmi rientrare. Ogni giorno, infatti, a metà giornata, i soldati scambiano le loro posizioni nel checkpoint. Così, in genere, trovi lo stesso soldato a controllarti la mattina all'ingresso del checkpoint e il pomeriggio all'uscita. She didn't allow me again to pass because she know that this morning we have problems with her. Duha, è una donna matura, responsabile del Palestinian Youth Union, che a Ramallah lavora con i giovani e le donne perché questi siano tra i promotori del cambiamento della società palestinese e tra gli interpreti del processo di pace con Israele. Una donna matura che ha dovuto sopportare un abuso gratuito per una settimana prima di trovare la forza per reagire. Una donna matura che molto spesso di fronte si trova dei soldati molto giovani che a guardarli non gli dai più di 20 anni e che spesso quando ti parlano rivelano la propria ingenuità, come quando ti dicono che l'Italia è un bel posto e ti propongono un improbabile scambio di ruolo. Come quando, peggio, ammettono beffardamente che nei territori occupati le cose non devono andare poi così bene. I used to live in Avudis, mainly the village which near Jerusalem, 5 minutes from Jerusalem, and I'm working in Ramallah, so I have to pass through the checkpoint which called Kalandia, which is the biggest also of the checkpoint around Ramallah city. I have to pass every day to go to my work and come back to my work. One day when I try to pass the checkpoint, they don't allow me to enter Ramallah, so they retained us back to the, and they don't want us to pass. We try to find another road, which is the side road. It's from the mountain, so we walk around half an hour in the mountain, so we could pass to the other side of the checkpoint, which is the Kalandia camp, and then go to Ramallah. When we are walking, there are women, young people, all of us walking very quickly because we want to pass before the soldiers they come, and sometimes because they shoot at. Io sono di Abu Dis, un villaggio a 5 minuti da Gerusalemme, e il mio posto di lavoro è a Ramallah. Così ho sempre dovuto superare il checkpoint di Kalandia, il più grande intorno a Ramallah, per 2 volte al giorno, per andare a lavorare e per tornare a casa. Uno dei tanti giorni, i soldati israeliani non mi hanno permesso di superare il checkpoint per andare a Ramallah e mi hanno detto di attendere, perché avevano improvvisamente deciso di chiudere il checkpoint. Così, insieme ad altre persone, abbiamo pensato di percorrere una strada alternativa che corre intorno alla montagna. Eravamo donne e giovani e tutti cercavano di camminare rapidamente per evitare di essere intercettati dai militari israeliani. Talvolta questi sparano anche a vista con chi cerca di eludere i checkpoint. Oppure il più delle volte ti fermano, ti portano nei checkpoint e qui ti trattengono anche per tutto il giorno, dalla mattina alla sera, anche senza far niente, solo per punirti. Dalle montagne avevamo già quasi raggiunto Ramallah quando i soldati ci videro e iniziarono ad inseguirci. I più giovani dei nostri, spaventati, iniziarono a correre a ritroso per tornare indietro. Anche noi più grandi iniziamo a tornare indietro, ma i soldati continuavano ad inseguirci. Dalla parte opposta trovammo altri soldati. Eravamo circondati, non sapevamo più cosa fare e così i giovani trovarono un'altra stradina. Io cercai di entrarvi, ma a questo punto alcune rocce dall'alto franarono e delle pietre mi colpirono alle spalle, procurandomi una frattura. Caddi e non riuscivo più ad alzarmi. I soldati erano in alto e noi giù. Iniziarono a gridare: «Se non ti alzi e ci raggiungi immediatamente, ti spariamo addosso!» Ma il mio dolore e la frattura alle spalle non me lo permettevano. Così i militari iniziarono a sparare in aria. La paura mi diede la forza di alzarmi e di andare verso di loro, ma dopo un po' caddi, una seconda volta. Allora uno dei giovani che era con noi riuscì a raggiungere i soldati e confermò a loro che avevo la spalla rotta e non potevo muovermi. Al giovane fu risposto che avrei dovuto comunque raggiungere i soldati ed insieme, dopo la mia identificazione, saremmo andati al checkpoint. Facemmo così e solo dopo fu chiesta un'ambulanza per portarmi in ospedale. Questo è accaduto 1 anno fa ed io sono stata costretta a lasciare Abu Dis e cercare casa intorno a Ramallah per essere più vicina al mio posto di lavoro ed evitare il passaggio ogni giorno dal checkpoint. Attualmente ho ancora problemi alla spalla, soprattutto se devo fare grandi sforzi o movimenti impegnativi. Non posso percorrere a piedi grandi distanze, non posso trasportare cose pesanti. I live Abu Dis and I live I found a flat in Ramallah to be near my job. I still facing problems. I'm now better than before, but I still facing problem. I can't walk for a long distance, and also I can't carry things because I have a problem in my back. Till now I am not really good, but if I am doing a hard job or I stay in the same place for a long time, walking for a while, I can't move. Un'altra testimonianza di Duhua ci riporta la drammaticità di Calandia, perché i checkpoint non sono solo il luogo del sopruso, ma spesso diventano luoghi del dolore, dove neanche la pietà riesce ad insinuarsi tra gli ordini dei comandanti militari. My nephew needed to make operation in his ear. He had a problem in his ear, and there is no specialized hospital in Ramallah, so he need to make his operation in Jerusalem hospital. It's named Makassar. Mio nipote aveva bisogno di un intervento chirurgico all'orecchio. Non ci sono ospedali specializzati a Ramallah. Così aveva la necessità di raggiungere l'ospedale a Gerusalemme. Purtroppo però ai palestinesi è vietato l'ingresso a Gerusalemme, se non sono cittadini di Gerusalemme. Bisogna allora procurarsi un permesso e superare il checkpoint di Calandia. Quando il padre del ragazzo è andato a richiedere il permesso, è stato negato quello per la madre. Così padre e figlio, a bordo dell'ambulanza per raggiungere Gerusalemme, hanno dovuto fermarsi al checkpoint di Calandia tra Ramallah e Gerusalemme. I soldati hanno fermato l'ambulanza, hanno controllato i permessi e hanno chiesto a mio nipote se era in grado di camminare. Mio nipote, che ha 6 anni, ha risposto: «Sì, devo operarmi all'orecchio, posso camminare». Così i militari non hanno perso tempo ed hanno ordinato a mio fratello e al bambino di scendere dall'ambulanza e di proseguire a piedi fino alla parte opposta del checkpoint, facendo la fila con le altre persone che erano a piedi. L'ambulanza, invece, è stata fatta proseguire, dopo ulteriori controlli, dalla parte del checkpoint, dove transitano le auto. Mio nipote, così, dopo 1 chilometro, a piedi, sotto un sole cocente, è potuto risalire sull'ambulanza per raggiungere l'ospedale. Nel frattempo, la mamma, a cui era stato negato il permesso per andare a Gerusalemme, aveva provato ugualmente a presentarsi al checkpoint e lì chiedere pietà ai soldati di turno, spiegando loro la situazione. Ma niente di fatto, non le era stato permesso di passare. Così decise di raggiungere lo stesso Gerusalemme percorrendo quello che noi chiamiamo le strade alternative. Prima di partire mi disse: un bambino di 6 anni ha sì bisogno di suo padre, ma ha bisogno soprattutto della presenza di sua madre. Ha dovuto superare 6 diversi checkpoint minori e per 6 volte ha dovuto cambiare bus e pulmini tra un checkpoint e l'altro, sempre con il rischio che qualche soldato la rispedisse indietro. Ma la sua ostinazione è stata più forte e lei ha potuto raggiungere l'ospedale di Gerusalemme e stare un po' con il suo bambino. La stessa cosa poi è avvenuta al ritorno. Pensate, tanti rischi e tanti sforzi per stare solo un po', un'ora sola con il proprio bambino. But she reached at the hospital and she saw her son and she came back through 6 checkpoints only to stay with her son 1 hour. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stay there. Between stones and soil and everything, you couldn't smoke, you couldn't eat, you couldn't drink. And there's a person who's ill. Un'altra volta sono rimasto lì all'interno di un capannone del checkpoint in attesa di essere interrogato dai soldati israeliani tra le pietre e la polvere. A me e agli altri nel capannone non era permesso mangiare, né bere, né fumare, né fare altro. Solo attendere ore e ore. C'era un anziano che stava davvero male, così ho chiesto ai militari di farlo andare, ma loro si sono rifiutati. Ho ripetuto: così, in queste condizioni, temo che possa anche morire, ma loro hanno continuato a rifiutarsi di farlo andare. Solo dopo alcune ore ci hanno sollevato da quella situazione, così ho prima fatto bere quell'uomo, poi abbiamo recuperato i suoi bagagli e ci hanno permesso di andare via. Anche Zarife e Mustafa hanno le loro storie amare da raccontare. I bambini, gli anziani, le donne, nessuna cautela, nessuna eccezione quando la carta d'identità è quella di colore verde rilasciata dall'autorità palestinese. دق الباب دخلوا الغياب ان دق الباب ودخلوا الغياب دب الصقر وطاي ستي لعيوني شباب دب الصقر وطاي ستي لعيوني شباب. I checkpoint del resto non sono l'unico simbolo della frattura. Un'altra grande barriera, un muro di separazione, è ormai in costruzione da oltre un anno. Con questo muro Israele intende circondare e rinchiudere completamente tutti i territori occupati, dichiarando che così intende difendersi dagli attacchi suicidi dei kamikaze palestinesi. Di fatto una gabbia di cemento lunga 650 chilometri. Sta rinchiudendo e segregando definitivamente l'intero popolo palestinese nel silenzio quasi assoluto della comunità internazionale, come ci racconta Mustafa Barghouti, uno dei leader storici delle organizzazioni civili palestinesi. Exactly, what is happening now in Palestine in the West Bank is that Israel is building what we call the new Israeli Berlin Wall. It is exactly like Berlin Wall, only with two differences. Quello che sta accadendo in Palestina è la costruzione da parte di Israele di un lungo muro che potremmo chiamare il muro di Berlino israeliano. È esattamente infatti come il muro di Berlino, ma con due differenze. Prima di tutto è molto più alto, circa 8 metri. In secondo luogo è molto più lungo, si è giunti sinora a costruire per circa 325 chilometri. È un muro che sta già distruggendo la vita delle persone, dalle fattorie alle piantagioni, fino alle risorse idriche del suolo in Cisgiordania e divide ulteriormente le persone dalle famiglie, dai parenti, trasformando tanti villaggi e città palestinesi in piccoli settori desolati, distaccati dal resto della nazione. Questo è un atto disumano che individua Israele non solo come l'ultimo paese coloniale del XX secolo, ma anche come il creatore del peggior sistema di apartheid di questo secolo. Tutto ciò deve essere denunciato e deve essere fermato dall'intera umanità. In this century and it must be stopped, it must be criticized for the sake of all humanity. Anche la roadmap, il nuovo percorso intrapreso lungo il processo di pace, non è proprio uno strumento imparziale, poiché individua maggiori poteri decisionali in favore di Israele e relega l'autorità palestinese in una sostanziale situazione subalterna. Ce ne parla ancora Connie. Unfortunately, the roadmap is very similar to the Oslo process. It's a way for Israelis and Americans and some of the international community to end Palestinian resistance. La roadmap è molto simile al processo di Oslo. Non è assolutamente uno strumento valido per promuovere un processo di pace. È pensato da Israele, dagli Stati Uniti e da parte della comunità internazionale per fermare la lotta di resistenza del popolo palestinese e per costringere i palestinesi ad accettare le proposte israeliane. Non è indirizzata ad un equo bilanciamento dei poteri, perché permette ad Israele di definire l'agenda. I palestinesi hanno già fatto quello che la roadmap prevede debbano fare nelle prime fasi. Israele invece non ha fatto niente. Non ha bloccato la costruzione delle colonie, anzi ha iniziato a costruirne di altre. È in ritardo anche rispetto al rilascio dei prigionieri politici. Sfortunatamente Stati Uniti e comunità internazionale rimangono sulle posizioni di Israele, così la roadmap è semplicemente una perpetuazione del problema. You agreed to this. So no, I see the roadmap as a continuation of the problem. I don't know, but I haven't anything why he do that or why he told me you love Hamas, you love Jihad Islami, you are... Molte volte faccio difficoltà anche a capire perché i soldati si comportino così. Credo che abbiano l'obiettivo di farci vivere costantemente nella paura. Così alcune volte ci chiedono se noi amiamo Hamas o la Jihad Islamica. e odiamo gli ebrei e i militari, allora talvolta rispondo loro: io non ti odio, io amo la pace, tutti i palestinesi vogliono vivere in pace, ma tu cosa stai facendo a me? Tu vuoi davvero la pace? Cosa dovrei fare io quando tu mi tratti in questo modo? نلتقي في ذات يوم. Il pensiero di Mustafa sembra chiaro. Costretti da decenni in queste condizioni, i palestinesi hanno imparato a convivere con gli occupanti e con i loro checkpoint. Tanto che, come accade assurda, qualcuno ha trasformato i checkpoint in luoghi di lavoro. Lavoro informale, certo, ma che permette di tirare avanti in un'economia chiusa e soffocata come quella di Palestina. Così Mahmoud, che si è inventato un nuovo mestiere. Prendo le persone, quelle che non possono attraversare il checkpoint da sole, le trasporto con i loro bagagli da una parte all'altra, facendole salire sul mio carretto trainato da questo bell'asino. In realtà questo non è il mio lavoro. Prima che la strada fosse chiusa, avevo un piccolo orto di frutta e verdura e vendevo i miei prodotti al mercato. Ora, dopo la seconda intifada, non c'è più mercato e mi ritrovo costretto a fare questo lavoro. Siamo in diversi, in realtà. I militari israeliani ci danno grandi problemi. Talvolta ci costringono ad andare via dal checkpoint, altre volte ci obbligano a pulire la strada, dicendoci che noi portiamo polvere. Tante altre volte ci fermano, controllano la carta d'identità e fanno perdere tempo a noi e alle persone che trasportiamo. Chiedo a ogni persona un shekel per corsa, se poi qualcuno ha dei bagagli con sé ne chiedo anche 5 o 8 o 10, dipende da quanto spazio occupano. Riesco così a incassare tra 50 e 100 shekel al giorno, dipende se il tempo è buono, se c'è poca o tanta gente. Questo ricavo non è però sufficiente per la vita mia e della mia famiglia, non riusciamo a soddisfare le nostre necessità. Certo, ho imparato anche ad arrangiarmi, se riesco a guadagnare 50 shekel al giorno è sempre meglio di niente. Rassegnazione, si potrebbe dire, quella che ti spinge ad accontentarti di 50 shekel al giorno, circa 10 euro, per mantenere un'intera famiglia con un costo della vita abbastanza vicino a quello italiano. Ma la Palestina, Israele e gli stessi checkpoint non sono solamente i luoghi della rassegnazione. A partire dalla società civile palestinese, i volontari della Union of Palestinian Medical Relief Committee svolgono un lavoro di grande utilità al checkpoint di Surda, dove si prestano ad accompagnare invalidi, bambini ed anziani che non riescono a superare il checkpoint a piedi. Ahmed ci presenta il loro impegno. La strada è chiusa, per cui le ambulanze e le automobili che trasportano persone malate o invalide che non sono in condizioni di camminare non possono attraversarla. Allora noi cerchiamo di trasportare le persone da una parte all'altra del checkpoint, utilizzando delle carrozzelle. Facciamo questa attività come pura opera di volontariato. Vogliamo davvero aiutare le persone e lo facciamo con molta determinazione. Credo che non ci sia un servizio simile negli altri checkpoint, perché quello di Surda, il checkpoint di Surda, è particolare, ha un tratto di strada molto lungo da attraversare, circa 2 chilometri. D'estate le condizioni sono difficili, fa molto caldo, la gente si stanca più facilmente, oltre a respirare la polvere che si innalza dal fondo della strada. Ma l'inverno va anche peggio, ci sono grandi problemi quando piove o nevica, e il tratto di strada diventa particolarmente duro e pericoloso. In queste condizioni in realtà molte volte troviamo tanta gente comune che non è parte del nostro servizio, che ci vede in difficoltà e ci chiede se vogliamo una mano, si rende immediatamente disponibile ad aiutarci, si mette da un lato della carrozzella e la spinge insieme a noi. E risuonano le campane a ricordare la multireligiosità di questo luogo. Ma i checkpoint, come stiamo sentendo, non sono solo luogo di disperazione, ma anche di solidarietà e di impegno. Luogo in cui di fatto si incrociano diverse storie, come quella delle donne del Match Some Watch, un gruppo di attiviste israeliane che, in barba ai mitra, alle jeep e ai blindati, sono lì a presidiare i checkpoint, per controllare se almeno i più elementari diritti vengono rispettati nelle operazioni di controllo e nel caso procedono a denunce tanto per via legale quanto pubblicamente. Ce ne parla ancora Connie. When the current intifada broke out, the Israeli left said, "What have we been doing wrong?" Quando è scoppiata l'attuale intifada, la società civile israeliana si è chiesta che cosa potesse fare. Ci siamo detti che abbiamo bisogno di pensare a nuove strategie di lavoro, a nuovi piani, e tra le diverse realtà è nato un gruppo di donne chiamato Match Some Watch, che significa Osservatorio dei Checkpoint. È un'organizzazione di femministe. Queste donne raggiungono i checkpoint e fanno un'attività di osservazione e monitoraggio. È un lavoro di estrema importanza. È la prima volta che in Israele le donne si approcciano ai militari in veste di guardiani e dicono loro: attenti che vi stiamo osservando, attenti che dovrete rendere conto di quello che fate nei checkpoint. E questo dal punto di vista israeliano è qualcosa di rivoluzionario. Sono tutte donne israeliane di circa 40 anni, donne adulte, con una forte maturità politica raggiunta nel tempo, che ora si esprime proprio nei checkpoint. Le iniziali motivazioni umanitarie del loro impegno si sono evolute in un'azione di carattere più politico. È un gruppo di donne molto interessante e la loro presenza nei checkpoint ha portato ad una diminuzione delle pratiche violente da parte dell'esercito. I soldati stessi si sentono influenzati dalla loro presenza, le donne prendono nota e se ci sono casi di violenza o di mancato rispetto dei diritti, di abusi da parte dei militari nei checkpoint, loro intervengono e segnalano il caso anche ad avvocati, realizzando un'azione di sostegno ai singoli, oltre che politica in generale. All'inizio, 2 anni fa, avevano molti problemi ad essere presenti nei checkpoint, perché i soldati li allontanavano. Dicevano loro che non potevano stare lì, ma adesso loro sono lì ogni giorno, per cui anche i soldati si sono un po' abituati alla loro presenza. La loro presenza è accettata. Del resto loro parlano molto di più con i palestinesi, che sono lì per attraversare i checkpoint, che con i soldati. E questo comunque non piace ai militari israeliani, anche se ormai permettono loro di rimanere. Resta comunque per loro, come cittadine israeliane, il divieto di entrare nei territori occupati, così non possono presidiare i checkpoint all'interno della Palestina. Devono rimanere a fare i controlli solo nei checkpoint principali, come quello di Betlemme o di Calandia. Talvolta sono state al checkpoint di Surda, che è interno ai territori palestinesi, ma di lì sono state allontanate, in quanto la loro presenza era ritenuta irregolare. Sono circa 100 donne, con gruppi attivi a Betlemme, a Ramallah e anche al nord di Israele. Regularly going, and they focus on Bethlehem and Ramallah. There's also a group of women in northern Israel, and they focus on some of the checkpoints there, but it's a small group. Quelli che sentite pregare adesso, le voci che potete ascoltare, appartengono ad ortodossi. Ma torniamo agli attivisti israeliani, che non si limitano al monitoraggio. Connie ci parla dell'esperienza di Alternative Information Center, il movimento di cui fa parte, che anche davanti ai checkpoint organizza momenti di sensibilizzazione, oltre a campagne di informazione nei confronti dell'opinione pubblica. The AIC is a joint Palestinian-Israeli organization. Our main activity is to end the Israeli occupation of Palestine and to work for a just society in both Palestine and Israel. Alternative Information Center è un gruppo misto che mette insieme attivisti israeliani e palestinesi con l'obiettivo principale della fine dell'occupazione per una giusta società in Palestina e in Israele. A causa dell'occupazione siamo costretti ad avere 2 sedi, una a Gerusalemme e l'altra a Betlemme. Ai miei colleghi palestinesi non è permesso di entrare a Gerusalemme ed attraversare i checkpoint, così loro non hanno mai visto l'ufficio di Gerusalemme. Anche noi, quando veniamo da Gerusalemme a Betlemme, infrangiamo la legge, perché il passaggio non ci è permesso, e allora attraversiamo la campagna per vie alternative. Siamo un'organizzazione riconosciuta legalmente, anche se non abbiamo rapporti ufficiali con il governo israeliano. La nostra è un'attività libera e noi speriamo che possa essere utile anche al governo israeliano. Ci siamo costituiti nell'84 tra le prime organizzazioni miste israelo-palestinesi e per questo dalla gente eravamo considerati ridicoli. Nell'89 il nostro direttore, un israeliano ebreo, fu incarcerato per 18 mesi e l'associazione fu dichiarata un'organizzazione di supporto ai gruppi terroristi palestinesi a causa del lavoro di controinformazione che portavamo avanti. Oggi Alternative Information Center è inserita nella lista nera delle organizzazioni in cui sono inserite le persone sospette e i nostri attivisti hanno sempre grandi problemi all'aeroporto se devono viaggiare in aereo. Non credo che le persone in Israele siano pronte a ricevere i nostri stimoli. Gli israeliani hanno la possibilità di sapere effettivamente cosa accade in Palestina, ma si rifiutano di saperlo. Preferiscono chiudere gli occhi perché non vogliono vedere cosa viene fatto al popolo palestinese. E questo è grave se pensiamo che comunque la maggior parte degli adulti israeliani ha fatto il servizio militare e ha operato nei territori occupati. È da almeno 15 anni che le organizzazioni per i diritti umani in Israele realizzano e pubblicano dossier e documenti. L'informazione è disponibile, ma gli israeliani non vogliono saperne. Per loro i palestinesi non sono esseri umani. E questo è razzismo. Così continua l'occupazione e si calpestano i diritti umani. Credo che appena il 5% degli israeliani ebrei sia davvero consapevole di cosa significa l'occupazione e non credo sia cambiato tanto negli anni, già dai tempi del processo di Oslo. I cittadini israeliani si limitano ad ascoltare quanto viene proclamato dai politici. Se Sharon dichiara di voler alleggerire la pressione sui territori occupati, gli israeliani ci credono. Se i politici della destra dicono che le condizioni ai checkpoint per i palestinesi sono più facili, l'opinione pubblica israeliana dà per vera questa dichiarazione. Stessa cosa per le costruzioni delle nuove colonie. Sembra che l'occupazione sia qualcosa di simbolico e che non abbia effettive conseguenze pratiche. In definitiva, il problema è che non c'è un reale accesso all'informazione. C'è un'assoluta mancanza di informazione credibile. C'è una pericolosa assenza di fonti di informazione diverse. È questo il nostro impegno, lavorare per rendere disponibili queste informazioni in Israele. So when we work with Palestinian society, it's making the information available, primarily about Israel and Israeli society. Giovani che si espongono in prima persona, che rischiano sulla propria pelle perché non vogliono tacere sulla barbarie e perché credono nella convivenza pacifica, nell'opzione due popoli, due stati. L'opzione che a parole viene invocata da tutti, a livello internazionale, Nazioni Unite comprese, ma che viene calpestata da un'occupazione dura e decisa, che nei fatti nessuno ostacola. Lo stesso lavoro è svolto da Tayush, altro gruppo molto noto della società civile israeliana che talvolta manifesta davanti ai checkpoint, come ci racconta Avi Possen. Within Israel, forget about the occupied territories, within Israel, Israel we have a minority of about 20% of Arabs who lives inside Israel and have equal rights. They're supposed to have equal rights as they are full citizens and they have the right to vote and the right to be voted. And even though they have that right, unfortunately, Arabs are usually discriminated within Israel. And the idea of Tayush was to try to establish to establish an organization that will try and fight for the equality and the partnership between a better partnership between Arabs and Jews within Israel, and then also to help Palestinians within the West Bank. All'interno dello Stato di Israele vive una minoranza araba che si aggira intorno al 20% della popolazione, al di là dei palestinesi che vivono nei territori occupati. Formalmente gli arabi hanno gli stessi diritti, piena cittadinanza, diritto di votare e di essere eletti. Purtroppo però, a dispetto di tanto riconoscimento, sono di fatto discriminati. Pertanto la necessità che ha fatto nascere il gruppo Ta'ayush è quella di avere un'organizzazione che lotta per l'uguaglianza e l'amicizia tra arabi ed ebrei in Israele, oltre ad aiutare e sostenere i palestinesi in Cisgiordania. Siamo un piccolo gruppo minoritario in Israele, anche all'interno della sinistra, che è a sua volta in minoranza. Abbiamo comunque ottenuto successi in alcuni casi, cerchiamo di mettere insieme attività politica e interventi umanitari, così organizziamo convogli di viveri, soprattutto nelle aree isolate in cui ci sono chiusure dei territori e città sotto assedio. Purtroppo non riusciamo però a cambiare la situazione, ma almeno cerchiamo di dare voce a chi vive in condizioni impossibili. Ad esempio, lo scorso Natale abbiamo fatto una marcia a Betlemme che era chiusa da 3 mesi e questo è stato un grande evento. Abbiamo così potuto vedere tanti bambini che, come in tutta la Cisgiordania, soffrono la fame e la povertà, non vanno a scuola, non hanno diritto all'istruzione, non hanno nemmeno il diritto di muoversi. Lavoriamo in posti diversi, stiamo preparando un grande evento nella città nuova di Gerusalemme, nel piccolo villaggio di Jaba, in cui poche migliaia di arabi sono completamente assediati e vivono come in un ghetto. Hanno un solo checkpoint d'ingresso che molto spesso viene chiuso e così non possono uscire. Stiamo quindi organizzando una grande manifestazione. In molti casi i cittadini però non capiscono cosa facciamo e anzi ci accusano di favorire il nemico. Ci sentiamo come dei messaggeri per Israele. Quando tra 5 o 10 anni la gente ci chiederà dove eravamo, noi però saremo felici di dire loro che abbiamo fatto il minimo che potevamo. Del resto c'è tanto odio, molti israeliani vedono i palestinesi come dei terroristi e molti palestinesi vedono negli israeliani esclusivamente dei soldati. Mi è capitato una volta di essere a Betlemme, ospite di una famiglia. I soldati israeliani sono entrati in casa nel mezzo della notte, rompendo le finestre e procurando altri danni. Hanno perquisito tutto l'appartamento perché cercavano un terrorista che erano sicuri fosse nascosto nella casa. I bambini e i giovani che vivono in questa città sono ormai abituati a queste scene. Così in ciascun israeliano vedono un soldato alla guida di un carro armato che spara dalla mattina alla sera. Non c'è l'idea che ci sono delle persone in Israele che lottano contro la guerra e propongono altre soluzioni. Questo dunque è uno dei nostri obiettivi, mostrare che israeliani e palestinesi sono tanti e diversi. Io poi lavoro anche come giornalista e credo di capire cosa accade. I media definiscono le notizie come qualcosa di nuovo, importante, interessante. Se siamo circa in 200 a fare una manifestazione, insieme ai palestinesi marciamo per un tema molto importante, ad esempio la possibilità per i civili di entrare nei territori occupati, e tutto fila liscio, i giornali non ne parlano, ma se la polizia spara o usa lacrimogeni e idranti e magari qualcuno resta ferito o finisce in ospedale, allora i giornali ne parlano. I media non sono interessati ai contenuti, ma soltanto agli eventi, ai fatti spettacolari. They will not, as in any other cases, the media is not interested in the in the essence, in the contents. It's interested only in the provocative, spectacular events. È davvero difficile credere che almeno nel giro di breve tempo qualcosa possa cambiare e i processi si possano invertire. Tuttavia i checkpoint, i luoghi della rottura, della segregazione, dell'umiliazione, diventano talvolta, abbiamo sentito, luoghi di incontro, dove diverse storie si incontrano, dove la solidarietà riesce ad esprimersi, dove si dà testimonianza che la gente rifiuta la violenza, è stanca di decenni di conflitto, come tanti lo chiamano, e cerca un dialogo con chi manifesta contro il proprio esercito da una parte e dall'altra con chi è ben disposto alla convivenza e non si fa inglobare nella spirale violenta voluta dalle organizzazioni terroristiche. E forse questa è l'unica strada su cui si può costruire un serio processo di pace voluto dalla gente, condiviso al di là dei calcoli di percentuali di territorio per l'uno o per l'altro, al di là dei calcoli di convenienza della politica internazionale, al di là dei calcoli contabili dei signori delle armi. Per dirla con Joseph Al-Ghazi, giornalista del quotidiano israeliano Haaretz, la pace è lontana, è vero, ma non abbiamo altra prospettiva. Ho 62 anni, comincio a pensare che io non la vedrò. Forse i miei figli, i miei nipoti, Sa però qual è la cosa veramente importante per me? Non abituarmi a quello che hanno fatto e fanno i governi israeliani, non diventare indifferente al male che viene fatto agli ebrei e agli arabi. Senza questo si diventerebbe bestie, indifferenti, appunto. Controradio e Cospe hanno presentato Sotto controllo, un reportage di Gianni Toma dai checkpoint in Palestina, traduzioni dall'arabo di Mustafa Safi.